onda Ciao Eddie, Piazza Alta, un programma di e con Sara, Marsi, Enzino e alla parte tecnica Simone One. Buonasera e ben ritrovati a tutti voi, simpatici amici di Piazza Alta. Dal 1976 su Radio F. Basta. Finito. Datemi mulini a vento, le chiavi del convento, la soluzione a tutti i difetti miei è la solitudine, ma non la vorrà. All'attacco, miele e tabacco, all'attacco, miele e tabacco. Sono nato sulle ossa rotte, dalla parte più forte. La fortuna è un fatto di geografia, voglio un tuo cavallo armato di energia. All'attacco, miele e tabacco e vino nero contro l'acidità. La danza dell'arroganza ha da finire e presto finirà. Non lascerò il timone al tempo, guardo l'orizzonte ogni momento, cerco soluzioni e trucchi di magia, credo che alla fine arrivi la cavalleria. All'attacco, miele e tabacco e vino nero contro l'acidità. Grido senza permesso, senza rumore, nessuno sentirà. Datemi mulini a vento, le chiavi del convento, soluzione a tutti i difetti miei è la solitudine, ma sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, male al ricco, al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. Sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, male al ricco, al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. All'attacco bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re. Siamo partiti alla grande con Sempre Allegri, il brano della banda Bardot che abbiamo appena ascoltato e che ha fatto ballare anche Marcello, il che è tutto dire. Perché Piazza Alta è Piazza Alta. Conduce Enzino Vessicchio, Enzino Vessicchio. Buonasera. Perfetto, buonasera. Ciao simpatici amici e benvenuti a questa nuova trasmissione, la numero 13 2014 di Piazza Alta su Radio F. È gasato stasera, ha fatto miracoli. Infatti stasera ho preso l'orzo. No, in realtà c'ha il fuso orario sballato, però no, si sta svegliando, sono ora contento, si è ricaricato e quindi... Sono rilassato, sono sereno perché oggi ho avuto una seduta con il mio analista. Ma va, che mi novità. Ha un po' riportato a, diciamo, a me stesso. Che salutiamo, l'analista. Sì, sì, salutiamo grande l'analista, il nostro, penso, secondo fan dopo la Edi, che abbiamo salutato in apertura, quindi... Ma ormai parliamo anche di cose proprie. proprio. Ho anche, sono stato anche a scena assieme a Eddie, ovviamente non da sola, ma insomma eravamo tanti. Perché hai tenuto a specificare non da soli? Ma per come lei, mai? Per lei, perché? No, per mantenere la sua... Come... Il messaggio no, è che subito... è un latrin lover. No, sì, no, assolutamente, c'era anche Tristano, certo, che saluto, che sarebbe il marito. Insomma c'era un po' perfetto di gente, sarà in tanti. Ecco, era per non creare ovviamente imbarazzi. C'era un centinaio, ma insomma... Cioè, intima. Vogliamo parlare cena solo di me o parliamo anche di questa trasmissione? Ma no, ne parliamo tanto. Questa trasmissione è Piazz'Alta, come ha appena detto Marzi. Allora, 13ª puntata, per chi ci ha scelto e ci ha preferito, bravi, al Festival di Sanremo. Avete buon gusto. Senza dubbio. E per chi non l'ha fatto? Per chi non l'ha fatto non sa che cosa si perde, quindi pazienza. Ma può recuperare. Ci può recuperare domani sulla nostra pagina Facebook, che ci ha celebrato questa settimana, diciamocelo. Grazie. Grazie. Grazie. Veramente, guarda, che Sara voi, normalmente dice solo bischierate, ma cioè, sta dicendo una cosa sto seria. Impegnando. Grazie Sara, grazie. Era, perché... era il momento serio della puntata, no, davvero, abbiamo avuto veramente un picco di visualizzazioni e quindi, che dire, spopolano tra l'altro gli ospiti e diciamo subito che stasera ci saranno altri due ospiti. Sì, sì, sì, che forse saranno addirittura tre, ora vediamo se forse riusciamo tre, a convincerla a parlare. Intanto ne abbiamo due. Ma saranno qui tre, che e forse si stanno quattro scaldando. Con il carnevale, il contatto si impenna. Questa l'ho capita solo io, ma non importa. No, no, fa niente. Va bene, va bene, va bene. Ogni tanto va lasciato. Ma come parlare, possono ascoltarci? Marzi. Ma, allora, sui mezzi radiofonici, su mezzi. 101.2, sì. Sì, su internet www, su radiof.it. Cioè dovete scrivere www su radiof.it, anzi in realtà ha detto bububu. Bubu, sì, ma questo perché vero, e oppure una, scaricando che... un'app, l'app è che non Radio F, sia per iPhone che per Android, Piazz'Alta. Piazz'Alta. No, Radio F, non Piazz'Alta. Ma non importa, vabbè, tanto ormai no, se ci stanno ascoltando già lo sanno. È sinomo, dai. È importante comunque siamo, ricordare dai, anche gli altri appuntamenti sulla nostra pagina Facebook, che ormai sta diventando impegnativa proprio da seguire addirittura. Certo. Abbiamo i consigli per il weekend. Certo. Che, ok. Poi abbiamo una domenica da leone, che in realtà sta diventando un lunedì da leone. La domenica facciamo il carnevale. E poi abbiamo tanti altri. E poi abbiamo anche un canale YouTube dove è stato caricato un video. Questa settimana. Io guarda, grazie Sara perché per questa domanda. L'unica che sai leggere veramente sulle nostre. No, in realtà non c'è scritto. Vabbè, questo è proprio improvvisazione pura. È proprio abbiamo improvvisazione il pura. Il canale YouTube che si chiama Prova ad indovinare. Aspetta che sprigiona ora la tua fantasy. Ma Piazz'Alta. Grande. Piazza è tutto Piazz'Alta. The sky is crying. He cries, you see, sweet mouth. Ellie DeMoon e il suo brano Leave This Town, un artista che abbiamo già ascoltato altre volte. Ve lo ricordate? Soprattutto Marzi, vero? Sì, Ellie era anche qui, al di là era di anche qui. Sì, era un giovedì quando l'abbiamo ascoltata. Questo giovedì. Senza questa dubbio, era un giovedì. Poche cose sicure nella che vita. Che sai, sì, infatti, bene, qualunque cosa era un giovedì. Salutiamo allora, un sacco di persone che ci stanno ascoltando. Basta, non so, non... li salutiamo tutti senza fare differenze, scusa. Ma salutiamo subito i nostri due ospiti, Mauro e Virginia, direttamente dal cantiere dei Nottambuli. Ciao, buonasera a tutti. Ciao ciao, eccoli qua, sono loro. Intanto li facciamo ambientare perché insomma capisco che l'impatto è notevole vedere questi tre loschi figuri qui davanti. Allora, perché cioè, uno dei tre sei te? Sì, certo. Ah, okay. Certo, perché mica mi tiro fuori. Allora, abbiamo detto cantiere dei Nottambuli perché anche questa sera conosceremo gli altri due cantieri che sono rimasti. Abbiamo iniziato la settimana scorsa con due ospiti, non sbaglio il nome perché si chiamano tutti e due Jacopo. Sì. Questa sera ci rimane da scoprire i protagonisti del cantiere dei Nottambuli e del cantiere Bombolo, quindi partiremo proprio dai Nottambuli. Ora, Mauro e Virginia, vi chiedo un po' di pazienza perché, come abbiamo fatto l'altra volta, introduciamo il cantiere dei Nottambuli. In realtà è una prova per Enzino e Marzi per vedere se si capito, sono preparati. A voi vi chiediamo pazienza, noi la sopportazione per Sara. Ognuno di noi ha la è sua tignoso, parte di sofferenza. È tignoso. La cosa positiva è che si sta spengendo. Cara, quindi confido Sara nel fatto che di qui alla fine della puntata due si o tre cose. No, ma li devi far prima allora, dire. Allora, sì, dovrei fare una domanda. Facciamo, ma vabbè. Non riusciamo nemmeno a far finta perché Marcello, no, Marzi va proprio oltre. Vai. Grazie. Allora, Marzi, parti te. Sì. Introduci tu il cantiere dei Nottambuli, facciamo un po' di storia. Non te l'aspettavi, vero? Sara, grazie per questa domanda così intelligente e sagace. Ti dirò che ti coglie impreparato, guardi, però guarda, al di là di questo. Però io, essendo il depositario dello scibile umano, so dirti anche qualche cosa. Anche il tuo analista dei Nottambuli è il depositario. Cara Sara, il cantiere dei Nottambuli, devi sapere che è il più giovane dei quattro presenti a Foiano. Infatti, dopo alcune esperienze nella costruzione di piccoli carri con il nome di Cuccioli e Vitelloni, in cui io magari mi potrei non divagare, non vogliamo sapere in quale dei due. Sappi che nasce nel 1961 e mi dirai che giorno era, ma era un giovedì. Ovviamente era un giovedì. Le nostre voi, ricostruzioni se sbaglia storiche, correggetelo subito. Confermo che era così di giovedì. Ecco, sì. Poi Mauro, se c'è qualche imprecisione ci ti correggo, via. Quello che tuttora è il cantiere dei Nottambuli, formato da giovani soliti a far tardi la notte, bravo, sì, così, alla ricerca non solo di divertimenti, ma di come crearli, quindi anche autodidatti. Inventarli, organizzarli per la loro gioia e quella degli altri. I colori sociali sono il nero e il giallo e simboleggiano la notte e l'alba. Pensa, te pensa. Hai riflettuto su questa cosa? Sì, no, perché sono importanti dritto i colori nel carnevale di Foiano. Pensa al tuo maglioncino rosso con maglietta bianca sotto. Ti ringrazio per questo silenzio che ora vai a fare. Mantenendo bellissimo, bravi. Continuate così. Il silenzio lo fa lui perché guarda. Mantenendo sempre questi colori e questo nome, il cantiere dei Nottambuli è l'unico cantiere che ha partecipato alla manifestazione anche negli anni dal 69 all'84, quando questa si svolgeva senza cantierismo. In alcuni testamenti degli anni 60 sono definiti dal re Giocondo come estroversi, fantasiosi, originali, ricchi di inventiva e genialità. Ecco, mi permetto di permettimi di prendere la parola per dire che a distanza di 50 anni, e più tardi ce lo confermeranno anche Virginia e Mauro, le stesse caratteristiche li contraddistinguono dagli altri cantieri. Ancora oggi i cantieristi, se si escludono ovviamente i fondatori che frequentano il cantiere, hanno un'età media tra i 20 e i 40 anni. E Virginia, voi e non la potete vedere. Testimoniarlo, Mauro un po' meno. Non ha ancora 20 anni. Esatto, addirittura prima. Ma 19. Perché fa la media con te che hai 41, giusto? No, magari. No, 47. Vabbè, ma riporti divinamente. Dettagli questi. Pazza, dettagli. Come fai? Allora, tra i carri vittoriosi, voglio ricordare tra gli altri, allora il primo che ha vinto per i Nottambuli è Baldoria in Valdichiana nel 1967, sì. Sfortuna nostra e fortuna sua del 1975, in Valdichiana becca il gallo della Checca e la Valdichiana in fiore porta il buon umore, che sono dell'85 e dell'86, e sono importanti queste vittorie perché vennero quando ripartì ufficialmente la manifestazione dopo lo stop, giusto? Mauro? Sì. Grazie, questi mi riempiono il cuore. Ma ci manco l'87, ecco, ne parliamo dopo. Bravo, questo è un argomento di cui parleremo dopo. Poi ricordiamo il triplete con i carri Oltre la Porta, Anime Nude e Sogno del e Sogno, che sono del 2003, 2004, 2005, e fecero così in ottamboli una tripletta che fino allora era riuscita solo ai rustici, giusto? Oh, in ultimo, l'ultimo carro con cui hanno vinto in ottamboli, caro Marzi, lo dico a te. E questo è il record. Esatto, nel 2010 Delirium, che rimane l'unico carro ad aver fatto 25 punti, che è il record tuttora imbattuto. E ora ci dirai come hai fatto. Dopo. Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campagna o forse no, è sveglia, mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odore di grano, sale adagio verso me, e la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Cavallo tende il collo verso il prato, resta fermo come me, io faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito, respiro la nebbia, penso a te. Filtraggia il giorno come sempre sarà. Drying at my feet, all of nature seems to be dying as well, but she will return and I will find my way, and these are impressions of September. Leaves, leaves are falling. Davvero una chicca questa interpretazione del brano Impressioni di settembre fatta dai Marlene Kunz e da Patti Smith l'anno scorso nell'edizione di Sanremo, nella serata dedicata proprio alle cover fatte dai cantanti in gara con degli ospiti, in questo caso starei a ascoltarti per ore, guarda, ma... inutilmente, no, perché ragazzi, non ti ascolto questo momento, vi prego, non lo roviniamo, non lo roviniamo. E così per ricordare che appunto è la settimana del Festival di Sanremo, ma chi ci sta ascoltando comunque ha preferito noi. E sono tanti. Fazio mi ha chiamato, sì, vabbè, non, no. Ha detto, non importa, dice, ora, no, ma noi aspettiamo la telefonata. Non vado in diretta, ma ho un impegno contrattuale. Ecco. Ma torniamo a noi. Ma ci ascolterà domani in podcast, sicuramente, la puntata della il pagina Facebook. Nottambulo Cantiere. Marzi, che sta smontando con allora, le mani alzate. Bravo. La prossima volta parte il mio microfono, ve lo giuro, è terribile. State... Allora, torniamo a noi. Abbiamo introdotto il cantiere dei Nottambuli, però adesso, insomma, sentiamo il racconto di chi ne fa parte, è venuto qui in rappresentanza del cantiere. Abbiamo Mauro e Virginia. Oh. Mauro ha ascoltato attentamente, ragazzi, la vostra presentazione. Sì, e secondo me deve fare già una precisazione. Sì, perché quando gliel'ho visto, l'ho letto in faccia. Perché dicevamo appunto che i Nottambuli hanno vinto nel 1985 e nel 86. però non hanno vinto nell'87. Come fu? Come non fu? Raccontaci un po'. C'è un aneddoto. Cioè, l'87 si doveva vincere. Ecco, questo è il riassunto. Ecco, sì, questo lo dicono un po'. Però era il terzo tipico anno. Tipico dei cantieristi. Cioè, per Foiano, ve lo dire, il carro piacque perché doveva vincere, insomma. Ecco. Sì, ricordiamo come si chiamava il carro. Droga no grazie. Quello con la famosissima Pantera. Quella Pantera, sì. E di cui ce l'avevamo ancora in cantiere. Ah, ancora la... Sì. Ah, sì, eh? L'abbiamo tenuta perché... giustamente. Se venissero liberalizzate. No, la Pantera, la Pantera hanno tenuto. È arrivata oppure... stasera. Prossimamente, negli anni, lo riproporremo questo carro. Chissà, esatto. Perché, esatto. Perché non vincesti, Mauro? Perché era... si aveva vinto 2 anni a fila e quell'anno lì poteva essere il terzo anno e non ce l'hanno fatta vincere perché c'era una coppa speciale che ancora non aveva vinto mai nessuno 3 anni a fila e non ce l'hanno fatta vincere. Quindi c'è ancora questo rammarico di questa, certo, per il 1986. Rammarico. Però per la gente aveva vinto il nostro carro. Ma succede, ogni tanto succede, sai Marzi, te lo spiego perché magari sei meno dentro a queste cose. Poi dopo questa coppa fu tolta e infatti negli anni dopo precedenti ha vinto il cantiere dei Rustici per 3 anni, però cioè, questa coppa non c'era più. Quindi ecco. Non aveva più lo stesso valore. Non aveva più lo stesso poi valore. Poi però avete vinto anche voi, perché diciamo questo, che negli ultimi anni avete sempre avuto dei carri particolari, se vogliamo, nel senso che fuori dagli schemi, quelli classici per cui uno potrebbe pensare... Sì, perché noi si è fatto sia dal Chianino... Esatto. Poi il Chianino non andava più, si è fatto carri politici, il politico non andava più, poi dopo... I Rustici hanno iniziato a fare i carri mitologici e sì, anche noi abbiamo cercato di fare dei carri simili ai loro, non come loro però, e ci ha pagato questa cosa. Ecco. Esatto, infatti avete vinto molte volte, sì. E come dicevo prima siete riusciti a fare anche voi la tripletta. Sì, si è fatta la tripletta nel 2003, 2004 e 2005. Sì, veramente con dei bellissimi carri. Qual è quello che... il carro che vi è rimasto più nel cuore? Beh, il carro che è rimasto più nel cuore, parliamo del 2010. Ci avrei scommesso. Quindi l'ultimo. Sì. L'ultima vittoria. L'ultima vittoria, che il carro si intitolava Delirium. Avevamo questo diavolo che si muoveva benissimo, insomma, e si è preso 25 punti, cosa che non era mai successa. Ecco, al canale di Foiano. Sono 5 giurati, ogni giurato... ovviamente dal primo al quarto posto, al primo posto danno 5 punti, quindi 5 per 5 25, sì. Per la prima e unica volta i 5 giurati cinque hanno primi. Dato per 5 primi posti, ecco. Beh, oh. Mauro, il cantiere dei Nottambuli, quante persone hanno persone del cantiere, quante persone sono? Quanta gente ruota? Siamo una trentina di persone, però che lavorano stabilmente a casa. No, che lavorano tutti, no, però ecco, chi viene, chi va, nel senso che, capito, cioè, ognuno ha le sue mansioni, dalla cucina, che da noi si mangia bene. Bene. No, diciamo, e vorrei ricordare anche che l'8 L'8 di marzo si farà una cena di pesce come tutti gli anni e in onore della festa della donna. Chiaro, il pesce sì, non che è aperto a tutti. No, scusa. Questa veramente. No, scusa Mauro. Allora io devo spengere un microfono. Adesso, cosa ha detto? No, perché, no, allora, no, te lo dico fuori onda perché magari qualcuno non ha, ma non era riferito a niente e da marzo Marci non ci sarà più. Sì, esatto. No. Dicevi comunque il cuoco? La vostra è il cuoco, c'è l'ossigeno, c'è il muglio. E quindi, la gente conosciuta, poi c'è le donne del cantiere, e insomma, voglio dire, si mangia bene, da noi lo sanno tutti. Certo. E, insomma, chi vuol venire, invitiamo a partecipare. Sì, si può iscrivere di già, cioè, si metterà fuori un foglio ora in questi giorni. Perfetto. Con numero di telefono e si può prenotare. Ecco. E noi invitiamo a partecipare alla cena. Iscrizioni aperte. Senti, volevo fare una domanda a Virginia che non vuol parlare. Oh. Sì. Siccome giusto, non ha la voce. Rappresentanza sì, di tanti cantori. Non ha la voce, l'ha persa tutta domenica. Mentre in piazza ballava e cantava. Certo, è un'animatrice lei. Quindi questo dimostra che a Carnevale di Foiano ci si diverte, perché certo, se non arriva a perdere la voce. Mi dicevi fuori onda che è il primo anno che sei dentro al cantiere dei Nottamboli. Sì, è il primo anno e il cantiere è un ambiente fantastico perché si viene a creare una sorta di seconda famiglia e c'è un calore immenso. Sì, si litiga, ci sono delle discussioni, ma i rapporti sono fantastici. Ho conosciuto un sacco di persone splendide e mi trovo benissimo. Non cambierei il mio cantiere per nessuna cosa al mondo. Beh, io su questo che facciamo? Possiamo mettere solo una canzone, perché quindi così è impossibile. Meglio, ma non andate via, che continuiamo. Meglio, sì. Volevi essere immortale, non mi sembravi così banale. Fratello mio, avevi torto, se non c'è gusto ad essere morto. Ti farei vedere quello che hai lasciato, se fossi immortale saresti già tornato. Quelli che hai odiato, la tua foto nel taschino, quasi fossi un santino. Ce ne sono di carine, vivere ogni giorno come se fosse la fine. Sai, mi sembra un pensiero cretino. Devi vivere ogni giorno come se fosse il primo, con la curiosità di un bambino, con l'ingenuità di un bambino, con la crudeltà di un bambino, con la felicità di un bambino. Se morivo nel... dato che il nostro Marzi prima ha chiesto un brano d'amore, Simone ha ben pensato di passare questo brano del Management del dolore post-operatorio, che si intitola James Douglas Morrison. Ti è piaciuto, Marzi? Sì, in effetti, insomma, soprattutto il post-operatorio. Il chirurgo sicuramente. Sei stato accontentato, direi. È solo che dormivi. Lavora intorno e al quindi... cuore, quindi c'è sentimento, insomma. Ecco. Se vogliamo. Ma perché non l'abbiamo lasciato? No, ma perché ce lo lasceremo, dal 1976. Ogni tanto va fatto sfogare. Sì, Frino. Allora, Mauro. Torniamo a noi, torniamo a Mauro, al cantiere dei Nottambuli, c'è anche Virginia. Allora, io direi di magari presentare ai nostri ascoltatori anche le altre attività che fate in cantiere. Oltre, quindi, non soltanto carro, Sara, non soltanto cucina, ma ci anche... ha detto delle cose, sono delle chicche, perché tu, l'ossigenio, sì, il muglio in cucina sono delle istituzioni. Ma a parte loro due, che, di cui abbiamo fatto il nome, ci sono anche altri personaggi o altre attività oltre alle cene e quelle strettamente di cantiere che fate durante l'anno? Lo so, degli aneddoti, dei personaggi. Io però questi personaggi, magari diciamo due parole in più su questi personaggi, perché siccome ci ascoltano anche da fuori Foiano, chi ci ascolta da fuori ora si è incuriosito. Quindi, beh, insomma, io, chi sono ce n'avete personaggi? Di personaggi in cantiere? Sì. Sì, insomma, sì. Tipo Giancarlo, non lo so. Sì, il Vacca Giancarlo è un personaggio, insomma. I soprannomi parlano. Sì, da sì. Soli. Sì, sì, del Vacca è, insomma, un personaggio. Che... sappiamo che è leggermente attaccato alla bandiera. Molto attaccato. Quest'anno, cioè, ha avuto dei problemi, si è dovuto operare una gamba, è venuto poche volte. A trovarci veniva sempre, certo. Però a lavorare ha lavorato poco, perché non poteva stare in piedi. Però supporto morale ce l'ha dato tutto l'anno, insomma. Certo, ecco. Sì, sì, è un personaggio. Avanti, che... ragazzi, insomma, veniva lì e destreggiava, fate qui, fate là. Capito? Sì, che andiamo avanti. Ecco. Serve anche quello, serve. Certo. Dai, che fai bene. Ci vuole anche le persone. Lavora. Ci sono anche le persone che vengono solo a vedere, sono simpatizzanti, certo. Però non puoi dire a una persona che viene a fare, cioè a vedere e basta. Ci vuole anche queste persone che vengono, vedono, ti dicono: bello, guarda, io l'avrei fatto così, avete fatto bene a farlo così, ecco. Certo. Sono tutte persone che fanno comodo dentro il cantiere. In che periodo iniziate l'ideazione, la realizzazione questo dipende, per dire, quest'anno si è iniziato tardi come tutti i cantieri. Chiaro. Perché non si sapeva se si faceva il carnevale estivo. Il carro non si poteva smontare, sicché siamo andati a smontarlo tardi e siamo partiti tardi come tutti, insomma, ecco. Però si è tirato fuori, come tutti i cantieri, dei bei carri. I vostri vicini, che rapporto c'è con gli altri cantieri? Beh, io ora ti faccio un esempio. Sì. Sono stato al Carnevale a 100 qualche anno fa. Siamo arrivati lì, in questi hangar, c'erano i carri che separavano un carro e l'altro da un muro di un metro. Ah. Noi si rimase male, perché qui a Foiano non si trapela niente, no? Questo non sarebbe tutto segreto, no? Chiaro. Fino all'ultimo non si sa niente, o sa qualcosa, ma insomma non è che... Quando arriviamo lì, insomma, dico: ma qui come fate, insomma? Dice: ma sai, noi ci si aiuta, dice l'uno con l'altro, no? Dice: oh, passami un martello, un par di tronchesi. Dico: se va Foiano ci si ammazza subito. Alla faccia della competizione. Allora. Foiano ci siamo rispessi, dici, perché? Per contenere. Cemento armato. Qual è il tuo ruolo nel cantiere? Io sono uno dei meccanici nei movimenti. Poi, che c'entra? Durante i lavori si fa anche jolly, ecco, dove c'è bisogno, dove vado, ecco, non è che... Certo. Starei in meccanico. Principalmente in meccanico. Sì. Ecco, e voglio fare un'altra domanda a Virginia, che è sempre più contenta di parlare, sicuramente. Te invece, visto che è il primo anno, che cosa hai fatto quest'anno in cantiere? La carta pesta. La carta pesta, Sì, ho imparato a fare la colla. Addirittura anche la colla, già. E Mauro ha tentato anche una sera di insegnarmi a saldare. Sì. Sì, gli ho insegnato, voleva saldare, mi insegna a saldare, dico: proviamo, dico, e provò, dico: cammini un po' troppo, gli dissi, perché stasera o hai fretta ad andare via, gli dissi, però ecco, il cordone veniva un po' allungato, ecco. Ma a proposito di saldature, so che hai un aneddoto sulle saldature. Sì, io ti vorrei raccontare una cosa. Hai sperimentato, ecco, ho avuto notizie che hai sperimentato, sì, qualcosa di nuovo, sì. Potremmo brevettarlo. Questo mi è successo quest'anno. Che mi hanno fatto uno scherzo dentro il cantiere, mi hanno preso un legno 20x20, come il ferro. In fondo mi hanno messo un pezzettino di ferro di 20x20 e me l'hanno verniciato tutto di nero colore ferro. Ma meravigliosa questa cosa. Sì, che nel saldare, dicevo, oh, dai, salda qui, dice, metti sto ferro, se no si fa tardi, si va via da un po', eh. Vabbè, io saldo da una parte, mi salda la saldatrice, vado a saldarla dall'altra parte, ma saldava, eh. Sì, sì. Perché c'era sempre il ferro del telaio, però non faceva le scintille come saldassi normalmente. La consistenza. Ma che fai? Dice, ma lei dico, ma che saldi stasera? Non ti riesci a saldare stasera? Eppure dice, te ti riesci a saldare, no? E dico, ma come saldo? Dico, ma qui non l'hai saldato, vedi che si stacca. E io già, vai giù, risalda un'altra volta, no? Dico, capito? E invece dopo mi sono tutti a ridere, c'è chi mi riprendeva col telefonino. Perfetto, perfetto. Sì, sì, sì, cioè, su YouTube, sta cosa. È testimoniato. Sì, sì, sì. Allora noi nella nostra pagina, ecco, cercheremo di individuare, sì, qual, sì, è il filmato, così ti andremo e a vedere. E ve ne faremo, sì, partecipi. Sì, va bene, ve lo dirò. Bene, ragazzi, io vi ringrazio. Sì. Ci abbiamo da fare un saluto, sì, però. Sì, io vorrei salutare mio figlio, Lorenzo. Futuro cantierista. Certo, mi piace tantissimo venire al cantiere. Lui costruisce a casa, fa carri tutti i giorni, ne fa 4-5 al giorno. Non dico sul serio. Va bene, allora. E poi gli dai titoli, capito? Perfetto, certo, nel migliore stile. Sì, viene su bene, via, 10 anni. Bene, bene, perfetto. Sì, che lo saluto, Lorenzo, buonanotte. Perfetto, lo salutiamo anche noi. Il babbo tra poco ritornerà a casa. Meraviglioso. Un saluto. Passa a Paolo dal cantiere prima, eh? Certo, ci mancherebbe. Capito? Poi torna a casa. Un saluto anche a Virginia, un saluto. Ciao, ciao. A Mauro e a tutti i nottambuli. E un in bocca al lupo. Un in bocca al lupo. Crepi. Grazie, ciao, ciao, ciao. Ciao. uno dei più famosi, influenti ed importanti DJ al mondo. Lui è Cornelius e abbiamo ascoltato il brano Drop. Chi non si ricorda di Cornelius? Alle volte le battute sono veramente telefonate. Discografico. Vabbè, sì. Cornelius. Giapponese. Questo me lo voglio segnare. Lo metterò tra... Prendi nota, vai a cercare altri brani di Cornelius. Nella mia playlist. Saluto, certo. Perché io sono quello dei saluti. Saluto Veronica, Riccardo, Maria Cristiana, credo, e Marco, e Rachele, e Virginia, sono tutte persone che ci stanno ascoltando. Che ci stanno ascoltando, certo che ci salutiamo. E anche via, un gruppo di cittadini di Piazza Alta che sono qui sotto, che ci ascoltano dalla finestra e si avvicinano con fare minaccioso. Faremo, scusami, alla porta della faremo radio. Anche dei programmi live. Presto faremo anche dei live. Programmi live. Sì, a primavera, quando fa per i gli abitanti di Piazza Alta. Quando fa calda, apriamo la finestra a primavera e da sotto salutiamo tutti gli amici. Ma allora salutiamo invece i nostri nuovi ospiti. C'è stata un'altra alternanza, adesso abbiamo Samuele ed Alessandra. Ciao ragazzi, ben arrivati. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. E soprattutto tanti auguri a Samuele perché oggi è il suo compleanno. Ma pensa te... Mi dicono che compie 25 anni. Caramba. Magari. Caramba, che sorpresa. 25 anni una volta. Vabbè, ora non stiamo a guardare il dettaglio, quindi quale miglior modo per festeggiare il tuo compleanno che venire a me vengono in mente altri, però a se raccontarci voglia... di Bombolo. Il regalo più bello non ci poteva essere. Troppo buono. Ma prima di del cantierista. Ma prima di fargli raccontare a Samuele con la collaborazione di Alessandra di Bombolo, proviamo a raccontarlo un po' noi. Introduciamo un po' il cantiere, facciamo partire Marzi che se no si addormenta e lì che ma io, Sara, la palpebra. Vorrei proprio ringraziarti per questa domanda così intelligente e diretta, soprattutto sei ripetitivo. Ma del resto d'altra parte l'Alzheimer è una brutta malattia. Non posso dire altro delle tue domande. Così intelligente che da te non ce la saremmo quasi aspettata. Andiamo avanti, ma che è anche tempo spiazzato, passa. Veramente. Quasi... Si è visto, infatti stai temporeggiando ora se trovi il rigo. Cara Sara, la storia di Bombolo inizia, pensate come fu, come non fu, nel 1934, quando un gruppo di amici, riunitisi, decisero di costruire un carro in un capannone della fattoria del Lazzari e si diedero il nome del carro costruito quell'anno, Auf Bombolo. Bravo. Come l'ho pronunciato? Perfetto, l'hai interpretato. Pare che venga da... Ecco. Comprarono un'asse e delle ruote, quindi si partiva proprio dalla base, creando così in proprio il pianale. La base su cui ogni anno sarebbe nata poi la composizione allegorica. Ognuno dava il proprio contributo in ciò che meglio sapeva fare: meccanica dei movimenti, colore, progetto, idea e chi più ne ha, più ne metta. Questa prima opera fu subito molto apprezzata da tutti, anche se le figure a grandezza naturale risultarono un po' schiacciate dall'enorme mascherata. L'anno successivo Bombolo riscattò il secondo posto della prima opera con un grandioso primo premio, con un carro imponente e ben riuscito, Nettuno al Carnevale. Ora continuo io. Diciamo che poi il cantiere ha visto molti altri successi, ma li saltiamo perché altrimenti facciamo mezzanotte. Beh, non è che sono 6.000, però insomma ci vorrebbe un po' di tempo per dirli. Però diciamo che facciamo un salto fino al 1984 e a qui vorrei parlarne perché Bombolo è protagonista su due fronti. Il primo con la vittoria della manifestazione con il carro che scompiglio la zebra a Mangio il Giglio e opera costruita da un gruppo misto di bombolisti e componenti del comitato. Dall'altra parte con l'uscita del carro Bombolino che sancisce, vedo che Samuele annuisce e per me è importante, la rinascita ufficiale del cantiere. Quindi dall'85 si riparte e fino ad arrivare al 1990 dove il cantiere vince con Proviamoci con la magia e ancora nel 92 e nel 93 con Te lo do io il petrolio e O sogno qui gatti ci covan. Vorrei parlare del 2001, ma ne parleremo con Samuele dopo, fu un anno particolare. Funesto. Vedi, d'altronde è così. Fino ad arrivare appunto al 2006, l'anno che ha visto di nuovo vincitore il cantiere di Bombolo con E luce sia. E infine l'ultimo successo in ordine di tempo, quello del 2009 con il carro Beautiful Day. Per finire, vi voglio ricordare che Bombolo è, con la sua mascherata, campione in carica. See you. Colors to Life. Questo è il singolo del gruppo britannico The Temples e l'album è uscito il 5 febbraio scorso, quindi proprio novità, e novità ancora novità. Non è rientrato, se qualcuno lo avesse visto, è se ancora per cortesia in giro, cercasi disperatamente, ce lo segnala, cercasi disperatamente l'album dei Temples. Il produttore è un po' preoccupato, ma torniamo a noi. Torniamo a noi. Salutiamo di nuovo Samuele e Alessandra del cantiere Bombolo. Ciao a voi. E ora diamo a voi la parola, ragazzi. Sì, inizia Marcello con una domanda intelligente. Io vorrei sapere. No, non è il mio ruolo quello di fare domande intelligenti. Rimasto spiazzato, infatti, non si è sentito chiamato in causa. Vorrei sapere, Samuele, da te che ruolo hai nel cantiere? E poi ti faccio anche questa domanda perché mi avete stuzzicato, tu ed Enzino, sul 2001. Vorrei sapere anche che cosa è successo di particolare. Ok, allora io... Partiamo dal tuo ruolo nel cantiere. Perfetto, allora io mi occupo della meccanica e dei movimenti del nostro carro, che dal 2005 praticamente sono il responsabile negli ultimi anni insieme anche a Lorenzo, un altro nostro cantierista. E nel 2001 è successa una cosa che non è mai successa prima. Praticamente l'ultima domenica il verdetto non venne letto in piazza perché una giurata in pratica sbagliò clamorosamente. Si trattava di un critico d'arte e nelle relazioni che normalmente vengono consegnate dopo la votazione aveva scritto proprio chiaramente che il primo carro era l'Invincibile presentato dal cantiere di Bombolo, mentre nella schedina che viene compilata il giorno stesso che della visione dei carri ci aveva messo terzi noi e primi Nottamboli. Tra l'altro la scheda c'era anche un vizio di forma, cioè non c'era il titolo del carro ma il nome del cantiere, insomma c'era tutti, diciamo, gli estremi anche per annullarla. Ma così invece non fu, e noi si arrivò secondi e primi furono Nottamboli. Voi non sapete con quanta tristezza sento queste parole. No, ma capisco che il verdetto nel carnevale di Foiano sia proprio una cosa che divide. Che mette in soggezione i giurati, che li fa proprio confondere. Io lo starei a ascoltare per ore senza capire niente, tra l'altro. Ma io starei a parlare per ore senza dire niente, quindi volendo ci possiamo organizzare. La registrazione andrà al suonamento. Senti, Samuele, quanti siete nel cantiere? Ma guarda, il nostro cantiere da associati ne conta ma più di 400, cioè siamo, penso, se ci si presentasse come partito politico si sarebbe Enzo sindaco oltre che presidente del nostro cantiere. No, ma questo del presidente è un problema grosso che lo affrontiamo dopo. Ok, va bene. Nel secondo intervento. Va bene. E però diciamo lavoranti proprio, diciamo, la sera in cantiere, circa una ventina, da 20 a 30 più o meno. Ma proprio io so che uno dei punti vostri di forza è anche la mascherata. È il nostro fiore all'occhiello, visto come appunto diceva Enzo prima che siamo i campioni in carica. E penso che anche quest'anno la nostra figura l'abbiamo fatta. Speriamo che sia ottima. E sì, ce la vantiamo. Allora, senti, quanto tempo prima inizia il cantiere di Bombolo a elaborare e a cominciare a lavorare sul carro? Ma diciamo la fase progettuale, diciamo, incomincia a cavallo tra aprile e maggio. Ecco, voglio interrompere un attimo, Samuele. Faccio come se fosse il programma dove conduco anche io. Perché Alessandra, che ha solo salutato e che pensava di non parlare stasera, invece noi facciamo gli agguati, è stata protagonista quest'anno perché il progetto del cantiere di Bombolo lo ha presentato Alessandra. Perché vengono presentati più progetti, ma è stato scelto quello di Alessandra. Quindi facciamo spiegare in due parole sole di che cosa si tratta. Quindi abbiamo anche il colpevole, volendo. Esatto. Ah, dunque, il nostro progetto di quest'anno riguarda, diciamo, quello che è appunto il Dio Quattrino, come illustra il titolo, illustrato da tre figure fondamentali, che sono un avaro, quindi un uomo corroso dal potere del denaro, quello che è un mostro fatto tutto di monete, quindi questo denaro che si anima, che riesce a prendere e catturare l'uomo in tutte le sue forme, e un giovane, la figura che rimane praticamente sul retro del carro, la parte più alta, che spogliatosi di ogni veste e quindi di ogni cosa materiale, fa una scelta e sceglie di diciamo evolversi e dare più peso ai sentimenti, al cuore, a quella che è comunque l'umanità, l'animo dell'uomo, piuttosto che al potere del denaro. Ci sono anche due figure scure sui lati del carro, che sono due medici della peste, che storicamente erano dei medici addetti ad andare a visitare gli appestati a verificare che fossero morti o meno, e che quindi segnano un po' questo passaggio tra la morte dell'uomo corroso dal denaro e quella che è invece la rinascita. Ora ditemi, io potrei sembrare di parte, no? Ma ditemi se non è un carro spettacolare. No, ma sembra, lo dico, no, ma questo no, ma è, sembra anche un po' la mia storia. Da esterno, il mio analista vero, che è attaccato ai miei denari. Sì, allora mettiamo un po' di musica e poi continuiamo, perché ci sono dei personaggi nel cantiere di Bumble, ma ce ne parlerà Samuele. Andiamo con un po' di musica. Come on. Ultimo brano di questa sera è un brano dei Soundgarden, Burden in My Hand. Questo è il titolo ed è tratto da un album del 1996. Bene, brava, brava, brava, ma e succinta. Sì, sì, grazie. Domani la pronuncia l'hai sentita. Stasera parto per Sanremo di nuovo. A Cambridge. A proposito, perché Piazza Alta è Piazza Alta? Stava per dire perché Sanremo. È vero. Stava per dire perché Sanremo. Siamo in compagnia di Samuele ed Alessandra. Come l'hai detto bene, amici ascoltatori. Del cantiere di Bombolo. La. Samuele, dunque. Il cantiere di Bombolo ha anche delle iniziative moltissime collaterali a quella che è l'attività principale della costruzione del carro per l'anno in corso. E via via. Ce ne vuoi elencare qualcuna? Ma volentieri. Facciamo un sacco di scene. Ci sono un sacco di cucinieri, da Lorenzo Valentini detto Castagnier, da Lamara. Marchi Mara sarebbe la Mara come cuoca mi stimola, mi stuzzica. È forte. Mi dà sì, quel sì. Senso di massaia, quindi di cucina tipica. Ma poi ci sono stati, per esempio, sabato passato ha fatto la pasta Gianni, Marcone ogni tanto si cimenta come cuoco, quindi ce ne sa veramente, chi più ne ha più ne metta. Diciamo che il carro va bene, però mangiare è anche meglio, meglio. Mi sembra che sia un leitmotiv perfettamente in linea infatti con gli altri cantieri. In più si fanno anche gite una volta finita la manifestazione e insomma siamo di tutto di più. Senti Samuele, ti ricordi un paio di vittorie o veramente importanti o di episodi particolari? Guarda, delle vittorie me ne ricordo tre importanti per me. La prima è stata quella del 1990, proviamoci con la magia, in quanto è stato il mio primo carro da cantierista, da piccolo cantierista, avevo 10 anni, 11. E quindi... O 10 o 11, perché noi dobbiamo fare il conto di quanti anni finisce. Qui siamo precisi. Allora. Nel 1990? 11 anni. 11 anni. Nel momento che si è vinto avevo già 11 anni, però diciamo ho iniziato ad andare al cantiere qua, che avevo 10 anni. Perfetto. È il millesimo che lo frega. E si vinse con un grandissimo carro e con 23 punti, che fu un grandissimo successo. Mi ricordo benissimo anche la vittoria del 93, che si fece 20 punti, il massimo raggiungibile con 4 giurati, e in più la vittoria che è rimasta diciamo ancora viva nella memoria è quella del 2009, che fu veramente bellissima e sorprendente per tutti, fu una gioia immensa. Sì, ho qualche ricordo anche io di questa vittoria. No. Cara Sara, ti voglio dire che ho un minimo comune denominatore di tutti gli ospiti che sono stati qui a parlare dei cantieri e dei carri di carnevale, è il luccichio negli occhi, c'è sentimento in quello che dicono, hai notato che, anche questo. Penso che si senta anche dalla voce, quindi credo che questo passi in radio, proprio la passione per il cantiere. Quasi una dedizione. E guarda, a te Samuele ti sono anche vicino, perché con il presidente che ti ritrovi, sì, so che non è facile anche sopportare il carico di lavoro. Adesso lo metti in difficoltà. Ma non parliamo di queste cose. Parliamo di Bombolo e dei bombolisti e delle bomboliste, perché avevamo... Io anche dei bomboloni, perché... Perché Samuele prima ha detto che il cantiere di Bombolo è l'associazione di Foiano con più tesserati in assoluto. Da alcuni anni supera i 400 tesserati. Sì, ma qual è, oltre ovviamente la passione per il cantiere biancorosso, chi è l'artefice? Ma io penso che nessuno non può non conoscere il Borcia, ovvero Giovannelli Francesco, che in questo periodo si sta girando per case, vicoli, piazze con la sua valigetta, pronto a tesserare chiunque, insomma. E io ne sono testimone, perché bimbi in tenera età a casa mia sono stati tesserati. Mi permetto di dare io un aneddoto sul nostro tesseratore, che è andato a casa di una persona di cui non faccio il nome la mattina alle 9, e la tessera del cantiere Bombolo all'epoca veniva 10 euro credo, e questo gli ha detto: guarda, io ti do 100 euro ma per 10 anni non ti farò più vedere. È vero. È stato un momento meraviglioso. È l'amore. Allora, sappiamo che avete la professionalità, che avete altri appuntamenti, cene, cose varie, certo, cioè durante tutto il periodo di carnevale. Certo, diciamo tutti i sabati si fa sempre una cena in cantiere, le domeniche diciamo sì, si fanno dei pranzi principalmente per gli addetti ai lavori, ma anche se c'è qualche ospite ben gradito. Certo. La sera dell'ultima domenica si farà sempre la nostra cena in cantiere aperta, insomma, a tutti. Che vinca o no Bombolo, beh, la cena si fa. Speriamo di sì, comunque sia, e comunque sia si fa. E a proposito di questo, e con questo credo che dovremo chiudere perché il tempo è veramente tiranno, volato, come al solito. Soprattutto... Ti chiedo aspettative per questo verdetto. Vabbè, ovviamente da cantierista e nonché nato, diciamo, nel cantiere di Bombolo, mi aspetto la vittoria, ovviamente. Che tutti gli anni, insomma, ci si augura. Ne vedremo delle certo. belle, perché su quattro cantieri tutti e quattro ha detto che vincono, per sono carri da vittoria. Bene. Allora, ringraziamo Samuele ed Alessandra. Samuele, grazie a voi. Alessandra, ancora tanti auguri a Samuele. In bocca al lupo. E salutiamo anche tutto il cantiere ancora. Di Bombolo. Ciao. Enzino, chi ci resta da salutare? Beh, chi ha interagito sì. con noi durante guarda, questa puntata? Guarda, una marea di persone. I nostri radioascoltatori. Allora, Elvia, Barbara. Oh, volevo fare un saluto anche a mia mamma, che mi ha telefonato durante la trasmissione dicendo che aveva da dirmi altre cose. E poi torna a casa e mi dice: è bella la trasmissione, ma non si ricorda nemmeno che sono in onda. Quindi volevo salutarla personalmente. No, era per vedere se eri attento. Ma lo sai da quando? Dal 1976. Sara, fai te gli onori di casa, saluta per bene, va? Innanzitutto, per riascoltarci domani sulla pagina Facebook di Piazza Alta troverete il podcast di questa puntata. Noi vi ricordiamo che domenica c'è un altro appuntamento con il Carnevale di Foiano e noi invece vi aspettiamo giovedì prossimo con Piazza Alta. Ciao ciao. Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con Sara, Marsi, Enzino e Simone. One, one, one, one.